24, i gialli della storia. È la sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. Amix 24, oggi raccontiamo il giallo della morte di Papa Luciani, il Papa trovato morto nel suo letto il 29 settembre del 78 dopo un pontificato di soli 33 giorni. La sua morte è un mistero mai chiarito, su cui ancora oggi si interrogano esperti, biografi, uomini di fede, giornalisti investigativi come David Yellop, autore del libro In nome di Dio, e il biografo del Papa Camillo Bassotto. Papa Luciani. Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978. Voleva che la Chiesa fosse povera, fosse umile, fosse trasparente, che non possedesse ricchezze, che non avesse potere. Nella settimana precedente alla sua morte, il Papa aveva deciso che era giunto il momento di una riforma della Banca Vaticana. Il Papa voleva rimuovere l'arcivescovo Marcinkus, presidente dell'Istituto per le Opere Religiose, lo IOR. Ma che cosa c'è di misterioso in quella morte, nella morte del Papa? Per cercare di capirlo bisogna partire dal comunicato uscito dalla sala stampa del Vaticano. Questa mattina, 29 settembre, verso le 5:30, il segretario privato del Papa, non avendo trovato il Santo Padre nella cappella del suo appartamento privato, lo ha cercato nella sua camera e lo ha trovato morto nel letto, con la luce accesa, come se fosse intento a leggere. Il medico, dottor Buzzonetti, immediatamente accorso, ne ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente verso le 11 di ieri sera, per infarto acuto del miocardio. Un annuncio laconico e freddo che nasconde inesattezze, omissioni e falsità. Secondo il comunicato, la scoperta della morte sarebbe avvenuta verso le 5:30 del mattino, ma molti sostengono che il corpo fu trovato tra le 4 e le 4:30. A trovare il cadavere sarebbe stato il segretario privato del pontefice, padre John McGee, mentre molti sostengono che è stata una suora e che al momento della morte il Papa stava leggendo un libro, mentre altri sostengono che si trattasse di appunti personali. Secondo altre voci ancora, poi, il decesso sarebbe avvenuto verso le 11 della sera precedente. Insomma, una grande confusione. E a confutare parte di queste dichiarazioni c'è la testimonianza di Vincenza Taffarel, la suora che accudiva il Papa e che dopo la sua morte si è ritirata in un convento con il voto del silenzio impostole dalla Santa Sede. La sua testimonianza però è stata raccolta da Camillo Bassotto, biografo di Papa Luciani. La suora racconta che fu lei a trovare il Papa morto dopo che le aveva portato alle 5 il suo solito caffè e, non ricevendo risposta, era entrata nella camera trovandolo come addormentato. Ma di che cosa è morto Papa Luciani? A rispondere Edoardo Luciani, fratello del Papa. Quanti me l'hanno chiesto, io quando è morto da rimostrare, lo sa, sono venuto, l'ho visto sul feretro e basta. Però a tanti io ho detto, guardate che in famiglia no, io conosco tre casi della nostra famiglia di gente morta a 60, 62, 63 anni con lo stesso nome, senza che dicessero mal di testa, senza che dicessero poco appetito, e sono mancati così. Dopo ho sentito queste illazioni, queste voci, ho tornato a parlare con i segretari che sono ancora vivi. Quel che ha mangiato lui, ha mangiato loro. È fantasia. Io sono arci convinto che gli è successo quel che è successo alle zie e al nonno. Di tutt'altra idea invece David Yellop, giornalista investigativo. Putting it very simply, that Papa Luciani. Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978. Credo che qualcuno abbia messo della digitalina o altro veleno che non lascia tracce fra le medicine che il Papa assumeva regolarmente. L'ipotesi di Gallup non è assolutamente dimostrabile. Neanche con l'autopsia si sarebbe potuto accertare la presenza di digitalina. E sulla morte del Papa c'è anche un'altra ipotesi. Il teologo e giornalista Gianni Gennari, all'indomani della morte del Papa, avrebbe ricevuto le confidenze di un alto prelato di cui però non ha rivelato il nome. Quello che io so è che il medico gli ha consigliato un calmante. E quello che io ancora continuo a sapere è che il Papa, prendendo questo calmante, avrebbe sbagliato dose. Un calmante era un vasodilatatore, quindi una cosa che avrebbe dovuto aiutarlo a dormire. Si è messo a letto, ha preso questo preparato, di cui probabilmente aveva sbagliato la dose, ma avendo la pressione bassa, eccetera, eccetera, ha atteso il sonno. In realtà con il sonno è arrivata una tale vasodilatazione che il cuore gli si è fermato. Ma anche questa ipotesi non è dimostrabile. Nessuno ha mai potuto stabilire quali medicinali il Papa assumesse e in quali dosi. 9 anni dopo la morte di Papa Luciani c'è stato un nuovo clamoroso colpo di scena. A seguito delle continue polemiche del clamore attorno a quella strana morte, il Vaticano prende un'iniziativa veramente senza precedenti e affida a John Cornwell, scrittore ex seminarista, il compito di confutare la tesi dell'omicidio, e le conclusioni della sua inchiesta aprono la strada a una quarta ipotesi. La mia ipotesi è che nel giorno della sua morte un grumo di sangue piuttosto esteso abbia cominciato a circolare fino a raggiungere il cuore e a provocarne l'arresto immediato. Ora, poiché la sua veste da notte era strappata, io mi sono convinto che il Papa non sia morto nel letto, ma mentre era ancora in piedi e che sia caduto sul pavimento. Solo successivamente i suoi segretari lo avrebbero messo a letto e nel sistemarlo dalla posizione fetale a quella seduta gli avrebbero strappato la veste. Ma è solo una mia teoria personale. Ma c'è una nuova ipotesi che nasce 5 anni più tardi. Nel 92 un religioso spagnolo, un gesuita, padre Jesus López Sáez, scrive un libro, Si chiederà conto, che formula una nuova ipotesi sulla morte del Papa. Una prima conclusione del libro è la mancanza di fondatezza del comunicato ufficiale del Vaticano e quindi della diagnosi sulla causa della morte di Giovanni Paolo I. Senza precedenti di malattia al cuore e senza un'autopsia ufficiale non si può sostenere la tesi dell'infarto. Credo piuttosto che la morte sia dovuta a qualche sostanza ingerita o a un'iniezione. Credo che si dovrebbero continuare le indagini consultando gli archivi segreti, riesumando il cadavere, per arrivare a chiarire di che cosa è effettivamente morto il Papa. Se non si fa questo, è perché non si desidera che la verità venga alla luce. Precedente de che ha morto in realtà. Che questo, se non si sa, è perché non si quiere sapere. Probabilmente dopo 37 anni, tanti ne sono passati a oggi, è impossibile dare una risposta. Ma c'è un altro dubbio che alimenta le incertezze. Qual è stata l'ora del decesso? Nel certificato di morte il dottor Buzzonetti lo fa risalire intorno alle 11 della sera precedente, mentre suor Vincenza dichiara di aver sentito un tenue tepore quando ha scoperto il cadavere al mattino. A A confermarlo anche i fratelli Arnaldo, Ernesto e Renato Signoracci, che sono i tecnici dell'Istituto di Medicina Legale di Roma e imbalsamatori dei pontefici, chiamati dal Vaticano la stessa mattina del 29 settembre per le operazioni di conservazione del corpo di Giovanni Paolo I. Mi potete descrivere, se vi ricordate, com'era la sensazione che avete avuto entrando nella stanza di... Ma l'aspetto era serenissimo, anzi quasi sorridente, ricordo io. E colorito, non so... Colorito... Ci ha fatto un'impressione veramente di veramente che calmo, gioioso, ecco, di gioia. Sì, perché nelle prime ore della morte il sangue non è che deposita, si cioè deposita. Forma ipostasi immediatamente, ha ancora un limite vita, quindi circola, eccetera, e rimane un leggero colorito, certo, ma non cereo, insomma. Secondo voi, gira. Al vostro occhio esperto, quanto tempo era passato dal vostro arrivo alla morte? E così si può calcolare, non so, le 4 ore, per 4-5 ore, roba del genere. Infatti ho detto 9-10 mattino. Quindi anche questa testimonianza confermerebbe la tesi di Suor Vincenza, contraddicendo il comunicato ufficiale della Santa Sede. Ma quali sono le condizioni di salute del pontefice? Secondo alcuni, Albino Luciani arriva sul soglio pontificio con un fisico fragile, provato. Secondo altri, Luciani ha una salute di ferro. Così il giornalista David Yellow. La persona che andò a letto quella sera era un uomo sano, perfettamente in forma. Ho parlato con moltissime persone che lo avvicinarono quel giorno e anche di sera. Nessuna di loro ha notato il benché minimo segno di malattia o anche solo di malessere. Ciò nonostante, prima del mattino successivo, il Papa era morto. Ma proprio sulle condizioni di salute del Papa, nell'87 c'è un nuovo colpo di scena. Nel corso della trasmissione televisiva Giallo, condotta da Enzo Tortora, uno dei segretari privati di Giovanni Paolo I, Don Diego Lorenzi, rilascia una dichiarazione clamorosa. Non l'ho mai rivelato a nessuno perché nessuno è venuto a chiedermi spiegazioni o lumi a riguardo. La sera in cui sarebbe morto, verso le 18:30, è vero che il Santo Padre ha ricevuto in udienza il Cardinal Villot. L'udienza durò circa un'ora, alla fine della quale io riaccompagnai il segretario di Stato di allora all'inizio della terza loggia. Poi tornai nel mio studio e la porta del mio studio confinava con quella del Sommo Pontefice, il quale si fermò sulla soglia della porta stessa e a me e a padre Maghi, che era mio collega di lavoro, disse: ma strano, sento delle fitte e dei dolori qui al petto, con un senso di forte peso ed oppressione. La cosa stupì sia padre Maghi che il sottoscritto. Se ci fosse stato presente un medico, avrebbe detto: qui c'è un brutto infarto in agguato. Ma perché Don Diego Lorenzi, segretario particolare del Papa, ha rivelato solo a 10 anni di distanza questo particolare così importante? Ma e perché il pontefice avrebbe detto solo a Don Lorenzi di questo fatto? Quella sera stessa, infatti alle 21:30, Papa Luciani parla al telefono con il suo medico personale, il dottor Antonio Daros. E Daros, negli anni, dirà sempre che il Papa in quell'ultima telefonata non ha fatto cenno a nessun malessere. Allora a chi credere? L'unica cosa certa è che anche su questo esistono delle contraddizioni. Ma c'è ancora un altro interrogativo importante. Che cosa stava leggendo Albino Luciani prima di addormentarsi? Nel 1978, direttore di Radio Vaticana è padre Francesco Farusi. Cercai in modo particolare di avere un contatto col segretario del Papa, il segretario privato con cui si era portato da Venezia. Lui mi disse: il Papa è morto ed era sul letto e aveva in mano, quando è morto, anche dopo è morto gli è rimasto in mano sua, il libro dell'imitazione di Cristo aperto. Io uscii con quella affermazione. Quella notizia fu presa da tutta la stampa, anche estera. Nel pomeriggio riuscii a sapere che non era vero. Come fece a saperlo? Riuscì a saperlo prendendo contatti in seno alla segreteria, a personalità più che attendibili, i quali mi dissero: padre, no, assolutamente no, non aveva l'imitazione di Cristo. Il Papa aveva in mano un foglio con degli appunti, dei quali non si è detto e non si dirà nulla. Ma sentiamo su questo punto il commento di Gianni Gennari. Quella sera lui, prima di cena, ha avuto un incontro che è stato abbastanza vivace con il cardinale Gianvio, che era il segretario di Stato. Io so che in quell'incontro lui ha presentato a Villot un panorama di alcuni cambiamenti in curia che avrebbe desiderato fare. Richiamava come segretario di Stato Benelli, accettando le dimissioni del cardinale Villot, che per ora erano state congelate. Villot gli ha risposto: santità, lei è il Papa, però se lei fa questo sarà interpretato come una specie di sconfessione degli orientamenti fondamentali del pontificato di Paolo VI. Luciani era rimasto molto amareggiato e, tenendo sulle ginocchia questo foglio misteriosamente scomparso, su cui era scritto questa specie di organigramma futuro, eccetera, eccetera, ha atteso il sonno. Da tutta questa serie di informazioni, David Yellop trae le sue conclusioni. Una volta stabilito che il Vaticano ha mentito su chi ha trovato il cadavere e su quello che stava leggendo al momento della morte, erano degli appunti e non un libro, dove era scritto in sostanza la sua intenzione di rimuovere alcuni prelati. Che ha mentito su così tanti argomenti, viene da domandarsi il perché di questa copertura, il perché di tutte queste menzogne. E la risposta è perché c'era qualcosa da coprire. E in quelle carte, secondo David Yellop, ci sarebbe il movente dell'omicidio di Papa Luciani. Un'ipotesi terribile che però non trova nessuna conferma, anche perché, lo ricordo, sul cadavere del Papa non è stata effettuata alcuna autopsia. E lo conferma Ernesto Signoracci, l'imbalsamatore dei papi. No, non fu fatta autopsia, anche se ne hanno parlato dicendo che hanno visto un paravento, cioè con tutta la gente dentro, tutta la, insomma, i fedeli di chiesa, pensando che procedavamo oggi. Ma chi era davvero Giovanni Paolo I, un rivoluzionario arrivato quasi per caso al soglio di Pietro? Oppure un uomo contrastato dal dubbio della ricerca teologica e sociale? È possibile che alcune sue prese di posizione dessero fastidio, molto fastidio? La proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. Ancora David Yellop racconta le sue considerazioni. Nella settimana precedente alla sua morte, il Papa aveva deciso che era giunto il momento di una riforma della Banca Vaticana. Il Papa voleva rimuovere l'arcivescovo Marcinkus, presidente dell'Istituto per le Opere Religiose, lo IOR. Ma se l'avesse fatto avrebbe svelato la gigantesca frode che legava Marcinkus a Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano. Una frode che consisteva essenzialmente nel furto di più di $1 miliardi. E questo il motivo principale della morte del Papa, il più verosimile fra le tante teorie. Dunque, secondo Yellop, ci sarebbe questo dietro la morte di Giovanni Paolo I. Ma chi era Papa Luciani? Un Papa che voleva una Chiesa povera, trasparente, dedita alla sua vera missione e che in soli 33 giorni aveva subito impresso al suo pontificato uno stile informale, fatto di parole semplici e del contatto diretto con i suoi fedeli. E come, non soltanto con le parole, ma coi fatti, faremo un esame alla fine della vita. E Gesù ha già detto quali sono le domande che ci farà. Avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli, mi hai dato da mangiare, ero ammalato, prigioniero, sei venuto a visitarmi? Queste sono le domande. Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Può, sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa, uno solo. Che classe fai? La quinta elementare. Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe? Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra. Però dovrò. Allora stai sempre in quinta o vuoi andare anche in prima media? Vuoi stare sempre in quinta. Oh, ma allora questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, oh, se sarò in quinta. Vedi Daniele, il Signore ha detto a tutti i cristiani: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, diventate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Quindi mai fermarsi, progredire con l'aiuto di Dio, nell'amore di Dio. D'accordo? Ecco, adesso ti lascio andare. Avete visto che mi ha aiutato? Appena insediato sul trono pontificio, Giovanni Paolo I compie dei piccoli gesti simbolici. Rifiuta la tiara, la sedia gestatoria, parla con l'io al posto del noi, improvvisa i suoi discorsi, trasmette concetti semplici con parole comprensibili a tutti. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. È papà, più ancora è madre. Tutti questi comportamenti sono in realtà indizi, spie rivelatrici di un modo nuovo di affrontare il pontificato, e il popolo dei fedeli lo ha capito. Passato il primo stupore per le sue parole e i suoi modi, la gente ascolta il pontefice con interesse e con curiosità. Ora resta solo il rimpianto per quello che è stato e per come avrebbe potuto diventare.